Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Direi che è il modo più bello per viaggiare. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old. Ed eccoci, buona domenica, buon pomeriggio, è il 14 febbraio e siamo in diretta su Radio Wombat, come sempre, come ogni seconda domenica del mese, su PoiUIT, Lettere Contrarie, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Io sono Mario e, come sempre, al mio fianco, il buon caro vecchio Edo Edoardo Olmi. Ciao Edo, ci sei? Ci senti? Ciao Mario, ciao Wombat, vi sento benone e buona domenica a tutti e ben ritrovati. Ti sentiamo benone anche noi, allora intanto un saluto a tutte le persone in ascolto che sono già tante e vedo anche in crescita. Un sacco di argomenti di cui vogliamo parlare oggi e quindi andiamo abbastanza speditamente, intanto annunciando la scaletta, ma prima ricordando a tutti che ci potete contattare in diretta o tramite l'indirizzo o via mail sull'indirizzo postawombat@insiberia.net oppure cliccando sul sito radiowombat.net nella pagina della diretta dove c'è un pad dove ci potete contattare. Che cosa vogliamo raccontarvi oggi? Beh, innanzitutto abbiamo realizzato un'intervista, una radiopresentazione al collettivo Trifaces, all'associazione culturale Trifaces e a Gianluca Bindi, autore di Waltzing Matilda, che è il primo libro pubblicato dall'associazione, appunto, di cui parleremo in apertura. E poi invece nella seconda e terza parte di questa puntata, Edo, di cosa andremo a parlare invece? Beh, abbiamo, direi anche questa domenica, una scaletta abbastanza corposa, perché appunto dopo la presentazione di Gianluca Bindi riapriremo, diciamo, una parentesi, una finestra sulla collaborazione tra Radio Wombat e il giornale di strada di Firenze Fuori Binario, dove oltre ad alcune rubriche appunto della radio ci sono anche alcuni testi, alcune mie poesie pubblicate anche sia sul numero di gennaio che in quello che uscirà a breve a febbraio. Nella terza parte faremo alcune letture da due libri di una collana di edizione Ensemble che si chiama La collana di Erranze, diretta da un poeta esule di origine albanese che si chiama Gesim Haidari, che ha vissuto molti anni in Italia, attualmente diciamo in un ulteriore esilio britannico, vive a Londra, e in particolare leggeremo appunto dall'ultimo libro di Gesim, ovvero Cresce dentro di me, un uomo straniero, che racconta proprio questa sua ulteriore vicenda di esilio, e dalla prima edizione italiana in assoluto di un poeta coreano vissuto fra la prima e la seconda guerra mondiale che si chiamava Yoon Dong-gyu, sperando di essere riuscito a pronunciarlo bene, e di cui Erranze ha pubblicato appunto in Italia per la prima volta l'unica raccolta pubblicata da questo poeta, che si intitola Vento blu, cielo, vento, stelle e poesia. E come avrete capito, quindi un sacco di argomenti, un sacco di letture, di poesia e di letteratura. Allora io direi di iniziare subito, mettiamo la prima canzone che è intonata alla presentazione che faremo subito dopo e poi andremo avanti appunto come annunciato. Vi terremo compagnia in questa domenica pomeriggio di diretta su Radio Wombat e quindi buon ascolto e a fra pochissimo. Wombat. Mama would rock me in the cradle in them old Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolabah tree. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a waltzing Matilda with me. Down came a jumbuck to drink at the billabong. Up jumped the swagman and grabbed him with glee. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Up rode the squatter, mounted on his thoroughbred. Up rode the troopers, one, two, three. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a waltzing, you scoundrel, with me. Up jumped the swagman, sprang into the billabong. You'll never take me alive, said he. And his ghost may be heard as you pass by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. His ghost may be heard as you pass by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with everybody. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. His ghost may be heard as you pass by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with me. Come a waltzing Matilda with me. Ed eccoci di nuovo in diretta su Po You It, Lettere Contrarie, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Come annunciato nell'introduzione, in questa prima parte della puntata di oggi andiamo a presentare un libro uscito da molto poco, è Waltzing Matilda, è così facile che sembra difficile, un libro scritto da Gianluca Bindi e edito da Trifaces. Trifaces, che comunque non è la prima volta che è ospite qui ai microfoni di Radio Wombat, è un'associazione culturale fondata a Firenze nel 2014, è un collettivo di scrittori e illustratori che ha dato vita alla rivista gratuita Street Book Magazine, che negli anni ha organizzato anche diversi eventi, fra cui reading, life painting, performance e molto altro. Da molto poco hanno anche iniziato a pubblicare libri veri e propri, libri rilegati, ed è anche un po' questa l'occasione del nostro invito in questa puntata di Po You It. Il libro di cui parliamo oggi, che è anche il primissimo che avete fatto uscire lo scorso novembre, è Waltzing Matilda di Gianluca Bindi, che appunto assieme a Simone Piccini di Trifaces sono ospiti entrambi qui assieme a noi oggi. Benvenuti a tutti. Grazie voi. Marco, grazie mille dell'invito, sono Simone. Ciao, sono Gianluca, ciao a tutti. Ciao e benvenuti. Dunque, io prima di parlare direttamente di questo libro affronterei un po' il percorso che vi ha portato alla pubblicazione, che infatti è in qualche modo per voi anche un ritorno alle origini, visto che proprio dalla letteratura di viaggio avete iniziato con il vostro percorso, con il collettivo di scrittura Go Face Yourself, va a quel paese, che proprio di questo si occupava. Beh, Simone, allora io ti inviterei a raccontarci un po' di questo vostro viaggio che vi ha portato infine a pubblicare questo primo libro. Bene, grazie mille. Intanto grazie mille dello spazio, perché ci fa veramente molto piacere. Bene, sì, Waltz in Matilda nasce veramente proprio... rappresenta un po' le origini dei Dirty Faces, perché proprio il primo progetto in assoluto che abbiamo realizzato è stato il blog di narrativa di viaggio, vai quel paese, Go Face Yourself, tramite il quale, quando ancora eravamo un collettivo di scrittura scevro da tutte le menate che porta l'associazionismo, la burocrazia, eccetera, eccetera, proprio un gruppo spontaneo, e tramite i racconti, insomma, cercavamo di raccontare quelle che erano le esperienze legate al viaggio, cioè legate all'incontro con culture diverse, con storie, con il diverso esattamente. E appunto è stato il primo progetto. Gianluca è stato uno dei primi a darci fiducia, a mandarci i propri racconti, ed è proprio da lì che nasce questo libro, perché appunto è un assunto un pochino di tutte le sue avventure, poi reso in un formato più armonico e completo. Per il resto, sì, quello è stato proprio l'inizio di tutto, perché da collettivo di scrittura, tramite il blog, hanno iniziato ad avvicinarsi a noi prima fotografi che corredassero con le loro fotografie i pezzi che pubblicavamo, poi anche qualche illustratore. Da lì piano piano è nata naturalmente un pochino l'idea di evolvere il tutto in associazione culturale, e poi è da lì che proprio prende la forma tutto quello che poi abbiamo creato. Infatti appunto è stato un progetto che abbiamo portato avanti per più di un anno e mezzo, quasi due mi sa, insomma abbastanza. Aveva raggiunto anche un suo pubblico, era comunque un qualcosa di interessante, che però poi appunto con la partecipazione di illustratori e fotografi e artisti visuali erano un pochino penalizzati dal medium blog, insomma, per cui da lì piano piano poi abbiamo capito anche un po' la potenzialità del legame tra testo e immagine, che è poi diventata un po' il tratto distintivo di Three Faces. Per cui insomma è stato un momento veramente molto stimolante, anche perché poi eravamo in un momento personale, io, Niccolò e Andrea, che siamo i tre fondatori, eravamo subito alla fine dell'università, un pochino nella dispersione, nel vuoto cosmico che accoglie tutti i neolaureati, poi in media giornalismo ancora di più, essendo che poi quello che abbiamo imparato in quei 8 anni di corso è stato il fatto che il giornalismo in Italia è una professione, insomma, da affrontare abbastanza con le molle, per cui insomma diciamo che tutto questo sviluppo poi ha portato a quello che è ora Three Faces, che è un progetto che ora stiamo cercando di far crescere e sviluppare in nuove direzioni. Ma subito da quando siete diventati associazione avete pensato di dare vita a una rivista che stampate, però questo è abbastanza singolare, credo, in cartaceo e che distribuite in free press. Distribuivamo, diciamo, perché ora purtroppo la situazione Covid, la crisi legata alla pandemia ha rischiato un po' di segarci le gambe, perché appunto diciamo che la nostra intenzione, questa è un po' all'origine in realtà, però poi diciamo che si è esplosa durante il corso nello sviluppo, è quella di avvicinare i ragazzi alla lettura. Questo è un po' la base su cui parte tutto. Anche l'immagine è un po' un mezzo, almeno lo era originariamente, per avvicinare, per dare un elemento in più di attrazione verso i ragazzi, che li avvicinasse appunto alla narrativa. però dopodiché poi ha assunto tutta una sua importanza paritaria completamente. Però appunto la scelta di rendere Free Press la rivista con tutte le difficoltà che comporta, perché appunto poi insomma i costi di stampa ci sono per tutti, per cui non facendosi pagare la rivista fisica, insomma da qualche altra parte uno i soldi li deve andare a prendere, per cui noi ci rivolgevamo a degli sponsor, poi sempre con la finalità, ora sto facendo un po' confusione nella spiegazione, però allora Streetbook Magazine nasce un po' come rappresentazione di una città virtuale, in cui i quartieri, gli angoli, gli scorci e così via vengono composti un po' dai racconti, dalle immagini che vengono pubblicate dentro, dai vari contenuti. E, il tutto nasce un po' anche per riportare, oltre all'interesse per la lettura nei ragazzi, l'interesse nella piazza, nella città, nella vita reale. Infatti anche il nome Streetbook Magazine nasce un po' da una contrapposizione con Facebook, Streetbook, insomma cercare di riportarli nella realtà, per cui anche mi riallaccio alla questione della Free Press. Sì. Praticamente appunto gli sponsor che avevamo anche in virtù di questa scelta di riportare lo Svento a Giro erano locali pubblici, caffè letterari, pub, così via, negozi di dischi o negozi di materiale da pittura, streetwear e così via. Però appunto erano tutti locali che poi con il lockdown sono ovviamente chiusi, per cui da un giorno all'altro ci siamo trovati senza l'elemento di sussistenza che ci permetteva di andare in stampa, per cui diciamo l'anno che abbiamo appena passato è stato molto intenso e abbastanza traumatico inizialmente, perché da un percorso che ci aveva portato ad essere completamente sostenibile economicamente, in cui avevamo messo 4 anni che avevamo impiegato 4 anni a raggiungere, da un giorno all'altro crolla tutto. Per cui insomma sono stati dei mesi, quelli intorno a marzo scorso, belli impegnativi e provanti, però abbiamo trovato questa soluzione continuare a mantenere la rivista gratuita, però purtroppo non potendoci permettere di stampare la tiratura che abbiamo fatto fino a dicembre del 2019, abbiamo dovuto limitare molto il bacino, il pubblico, per cui abbiamo praticamente veramente ridotto di tantissimo le copie. Certo, e comunque grandi che non avete interrotto invece questo percorso e che anzi proprio in questo anno difficile avete fatto uscire in controtendenza, fra l'altro, un libro stampato. Beh sì, ma anche perché appunto diciamo che questo è stato un periodo provante, anche perché ci ha fatto uscire un po' dalla comfort zone in cui eravamo arrivati. Cioè stampavamo il libro e la rivista, dovevamo gestire quella costantemente. Per cui un progetto come Waltzing Matilda, che era lì appunto dalle nostre origini, dall'inizio di tutto questo percorso, è rimasto in cantiere poi per 6 anni quasi alla fine della fiera. Per cui insomma diciamo che questo ci ha dato il modo di ripensare radicalmente quello che era Streetbook Magazine, e ci ha anche dato del tempo per riprendere le fila di tutti quei progetti che avevamo accumulato nel corso del tempo, che poi per mancanza di tempo, di energie e quant'altro non eravamo ancora riusciti a realizzare. Per cui insomma, ci sono i lati negativi e positivi in tutto questo, però insomma. Infatti abbiamo parlato anche di come avete resistito in questo anno difficile, e invece dell'anno e degli anni, anzi, che speriamo certo che verranno, ne parliamo più avanti. Prima di passare parola a Gianluca, io ho una curiosità, però, visto che abbiamo parlato del perché il nome Streetbook Magazine, parliamo anche del perché il nome Trifaces. Hai già detto che eravate in tre all'inizio. Ok, la versione ufficiale. Okay. Anche l'altra dopo. Allora, diciamo che il tutto nasce da una sera di fine università in cui mi stavo facendo un trifase, e da lì Trifase, Trifaces, mi era venuta automatica così, infatti anche il logo richiama un pochino. Poi, dopodiché, diciamo che il lato ufficiale della faccenda, che poi viene, insomma, viene a seguito di tutta una serie di ragionamenti interni e così via, si lega un pochino più alla terza faccia della medaglia, cioè il lato nascosto. Normalmente se ne vedono soltanto due, quando noi siamo fondamentalmente convinti che la realtà sia un qualcosa di molto più complesso di questo. Per cui appunto abbiamo cercato poi di omaggiare il lato di ragionamento che poi ti porta a andare oltre quelle due facce visibili. Per cui diciamo che questo è il vero motivo. Ora diciamo sulle origini, vabbè, aggiudicato, sì. Aggiudicato. Grazie anzi per questa ricostruzione, siamo contenti, chissà se l'avete mai detta in radio, siamo contenti. Assolutamente mai. Bellissimo. Ma c'erano diversi soci anche che non ne sapevano niente fino a poco tempo fa. Su Radio Wombat facciamo uscire gli altarini, siamo qua apposta. Allora Gianluca, passiamo un attimo a te. Io la prenderei di petto e ti farei una domanda generale, invitandoti a raccontare tu come ti senti, e ti chiederei che libro è questo di cui stiamo parlando, di cosa parla e anche perché hai scelto questo titolo e questo sottotitolo. Allora, il libro molto semplicemente parla di un'esperienza. È un romanzo di viaggio autobiografico, e del mio viaggio che ha tenuto luogo nel 2013, specialmente in Tasmania, che è un'isola a sud dell'Australia, in cui in un certo periodo della vita mi sono trovato ad avere, insomma, l'obiettivo di andarci. E il titolo è molto, molto strano. Però c'è un motivo per tutto. Mi trovavo in autostop con un ex ranger in pensione con una barba lunghissima e molto esperto di musica, che mi ha comunque introdotto a quello che gli australiani considerano come il proprio inno nazionale non ufficiale, che non c'entra niente con le robe super pompate nazionaliste che sentiamo oggigiorno, però si rifà comunque a una canzone popolare che parla proprio del concetto di Waltzing Matilda. Waltzing Matilda è un'espressione che insomma descriveva dei lavoratori temporanei che si spostavano a piedi da una parte all'altra del continente appunto per lavorare. Il sostantivo gergale di Matilda indica lo zaino con il sacco per il cibo e il letto arrotolabile, e basta. Fondamentalmente era l'unico bagaglio con cui si muovevano, e questo incedere, questo camminare faceva ballonzolare questo bagaglio, questo zaino che avevano insomma in spalla. E diciamo che raffigurava proprio un valzer, no? Questo dondolio, e quindi è stato coniato questo termine Waltzing Matilda, che poi praticamente è andato a significare la vita senza compromessi, il viaggio senza obiettivi, il rifiuto della carriera o di non lo so, di premi o di cose, ma proprio vivere la vita per come ti si presenta e nella bellezza della natura e insomma del cose. Quindi insomma mi sono all'istante innamorato di questa espressione, e penso che per l'approccio che ho avuto in questo viaggio mi sono sentito di prendere in prestito almeno come titolo del mio primo libro. C'è un sottotitolo anche. Sì, il sottotitolo è così facile che sembra difficile. Questo invece praticamente ero sempre ovviamente in Tasmania e ero ospite di un local, diciamo. E la cosa che mi ha fatto effetto è che insomma si riferisce comunque a un'espressione che dopo un mese e mezzo che comunque viaggiavo in lungo e largo, sempre in autostop, con tenda e senza un obiettivo preciso, fermo questa coppia per indicazioni, semplicemente. Loro stanno lì un po' a ragionare e poi decidono di ospitarmi a casa loro. E questa cosa mi ha colpito anche perché c'avevo uno zaino, avevo la barba lunga, di sicuro non ero pulito perché non so per quanti giorni sono stato in strada prima di quell'incontro, però la cosa che mi ha colpito proprio nel profondo è il fatto che si siano fidati. E mi hanno fatto andare a casa loro e mi hanno dato da mangiare. Loro comunque avevano un figlio piccolo di 4-5 anni e insomma invitarono un estraneo a casa comunque non è una cosa diciamo da tutti i giorni, però mi hanno sempre fatto sentire parte della famiglia, mi hanno proprio trattato come un figlio a mia volta, no? E diciamo che ho pensato proprio, ecco, delle volte è veramente così facile, no? Fidarsi delle persone. È talmente facile che con la società odierna sembra veramente difficile, quindi l'ho voluto imprimere come sottotitolo. Grazie. Beh, questo libro racconta di un viaggio che tu appunto effettivamente hai realizzato. Quando l'hai scritto? L'hai scritto alla fine? C'erano degli appunti che avevi preso durante i tuoi viaggi che eri composto? Com'è andata? Allora, sì, avevo degli appunti, quasi giornalmente tenevo un diario, dove insomma, non per forza davo comunque una cronaca di quello che era successo, dei luoghi che visitati, insomma, giorno per giorno. Era un po' un diario delle sensazioni, degli incontri, di come mi faceva sentire e niente. Alla fine è stato preso quel diario e trasformato prima in articoli per Go Face Yourself, perché con Simone ci siamo conosciuti proprio perché mi hanno invitato a scrivere degli articoli. Poi vedendo insomma degli episodi molto interessanti, molto belli, mi hanno invitato a scrivere questo libro. L'ho scritto una volta tornato in Italia e io avevo già provato a scrivere dei libri o dei racconti, ma era sempre andata malissimo. Mi ero focalizzato troppo sulla pagina bianca, ansie, eccetera. Devo dire che incontrando il nucleo che poi sarebbe diventato Three Faces mi ha aiutato comunque a avere insomma, il sostegno per portare a termine un libro e scriverlo. Quindi praticamente l'ho finito un anno dopo che ero tornato. Certo. No, intervengo perché è interessante, perché effettivamente mi ha fatto ripensare al fatto che noi abbiamo iniziato tutto il percorso con Three Faces, anche con un incontro tra vari stili, il fatto che era la prima volta che in tre ci siamo messi ad analizzare i nostri racconti, fare delle varie procedure di editing collettivo, per cui mettendo un pochino in ballo il proprio orgoglio che uno ha quando scrive, mettendo la propria produzione nel mezzo. E quei primi processi di questo tipo sono stati traumatici per tutti. Per Gianluca io me li ricordo perfettamente, i primi racconti, i primi editing sono stati veramente brutali. Ci sono stati degli scazzi, lui ci rimaneva malissimo, reagiva malissimo storpiando tutto, cioè riscrivendo completamente da capo, mollando tutto quello che aveva scritto prima. È stata una cosa bellissima perché poi, ora, a fine di tutto questo percorso, Gianluca è il nostro responsabile editing. Per cui è quello che poi svolge questo ruolo nei confronti di tutti i nuovi. È stato un percorso molto interessante a cui ho ripensato ora. Mi sembrava interessante da raccontare. Molto interessante, infatti. No, ti chiedevo se volevi dire qualcosa, infatti, su questo. Allora, sì, voglio dire qualcosa. E sì, i primi testi che scrivevo erano come i miei figli. E vedendo storpiati i miei figli, sì, mi prendeva veramente male. Poi ovviamente ho capito che meno ego c'è nella scrittura e più è manipolabile e più è usufruibile al lettore, perché quello è proprio l'obiettivo primario, sia generale sia appunto di streetbook o di Three Faces, arrivare nella maniera più consona al lettore. E ora, visto che sono passato da questo inferno, cerco comunque di guidare i nuovi scrittori, quelli che si approcciano ai racconti magari per la prima volta, seguendoli e insomma accompagnandoli in maniera molto più soft a questo percorso. Tra l'altro, voi infatti fate sempre call aperte per la partecipazione sul vostro blog, la vostra rivista, ma magari ci ritorniamo infatti dopo su questo. Invece, ti vorrei chiedere ancora, Gianluca, riguardo a questo viaggio, due domande assieme. La prima, perché? Perché forse è una domanda banale, ma o forse l'opposto, perché sei partito per questo viaggio così importante? Cosa ti ha spinto a questo? E anche se dovessi isolare all'interno di questo lungo viaggio che hai fatto alcuni momenti o non so, alcuni posti o alcune persone che hai incontrato che siano magari significativi su tutti, quali sceglieresti? Innanzitutto il perché, bella domanda. Proprio la prima riga del libro inizia con perché. Perché mi trovo davanti al gate dell'aeroporto di Roma per intraprendere questo viaggio? Beh, la risposta ha tante sfaccettature. Diciamo che io ho passato un'adolescenza intera fra allenamenti e scuola. Io facevo nuoto a livello agonistico, nessuno mi ha costretto a farlo. Ero molto appassionato della cosa e quindi ho dato, come tutte le cose, il 110%. Questo voleva dire anche tanti sacrifici. E una volta smesso all'età di 20 anni, non solo mi dovevo, cioè sono arrivato a chiedermi: e ora? Ma proprio c'è stato proprio uno sconvolgimento, insomma, della mia vita. Non sapevo cosa fare, ero indeciso sull'indirizzo universitario, tanto che la prima università a cui mi sono iscritto era fisica, e poi l'anno dopo filosofia, cioè proprio completamente al buio, completamente nella nebbia co più completa. E diciamo, dopo un periodo molto brutto, dove insomma mi sono isolato e tutto, avevo proprio voglia di staccare, di interrompere quel fiume in piena che sembrava essere la mia vita e cercare di capire chi cazzo ero per la prima volta. Niente, io avevo praticamente ero quasi partito per il Sud America. E avevo già i contatti per insomma un passaggio via nave, e avevo letto e visto film di viaggi in cui proprio il continente Sud America mi aveva attirato in maniera incredibile. Diciamo che un incontro mi ha fatto quantomeno cambiare l'obiettivo del viaggio. Facendo di dire, insomma, l'importante è il viaggio in sé per sé, non dove sei. E quindi, niente, ho iniziato, sono andato in Australia barra Tasmania, prima in Tasmania e poi effettivamente ho continuato in Australia perché avevo incontrato una persona e, diciamo, veramente ci eravamo innamorati e era giusto vedere come andava a finire. E, E questa persona magari è fra le risposte alla seconda domanda che ti facevo, ovvero dovendo isolare qualche volto, momento o emozione di questo viaggio, immagino che fra queste ci sia la persona che ti ha... Sì, sì, c'è un intero capitolo in cui parlo del viaggio che ho fatto in prima battuta con lei, sono state 2 settimane, dove dormivamo in macchina e insomma ci spostavamo... Ma non eravate in Italia allora, vero? Allora, prima sì, ci siamo incontrati in Italia, abbiamo fatto una settimana in Puglia e questo era l'anno prima, sì, mi sembra l'anno prima. E poi, insomma, diciamo, lei mi aveva chiesto se potevo passarla a trovare durante il viaggio e quindi ho detto, vabbè, visto che siamo visto nel che mondo. Ci siamo. E, niente, altri highlight del libro, diciamo degli sketch molto interessanti, è quando ho deciso da solo di andare a fare un percorso di 10 giorni su un monte della Tasmania, a gratis e di sgamo, non pagando il biglietto che dovevo pagare, cioè erano $200, e mi sono assolutamente rifiutato di fare. E fatto sta che parco nazionale bellissimo, montagna bellissima, alla prima tappa il ranger mi sgama e riesco insomma a dissimulare un po' di, diciamo, non so bene l'inglese eccetera eccetera, riesco a non farmi fare la multa da $600. Il giorno dopo ritorno al punto di partenza e diciamo che quella è stata un processo in cui ho completamente abbandonato ogni obiettivo, ogni traguardo, ogni aspettativa in quel viaggio, perché prima ovviamente c'era l'amore, poi insomma la voglia di andare lì, puoi fare quello. Ecco, quello è stato il vero punto a zero, dove mi sono spogliato di tutto, di me stesso. È stato veramente veramente molto potente e per la prima volta ho rifatto l'autostop non sapendo dove sarei andato la sera. Mi hanno caricato in un pulmino di francesi, mi hanno chiesto dove stai andando e io ho detto non lo so, dove state andando voi? E da lì proprio è iniziato veramente il viaggio vero e proprio, senza niente. Allora, io interromperei per mettere una canzone, e se siete d'accordo, e ci risentiamo fra pochi minuti per l'ultima parte di questa radio presentazione. La canzone che abbiamo appena mandato era Rise di Eddie Vedder. Fra l'altro, Gianluca, ho chiesto proprio a te di scegliere una canzone da inserire a metà dell'intervista. Beh, tutti i capitoli del tuo libro, intanto una cosa abbastanza singolare è che finiscono con una playlist. Alcuni dei pezzi in playlist sono peraltro citati all'interno del testo. Fa parte di questa playlist del libro anche Rise, e a quale momento, se richiamo un momento, si riferisce, e cos'altro ci dici di questa scelta di accompagnare ogni capitolo a una selezione di canzoni? Allora, innanzitutto ho scelto Rise perché è l'inizio, diciamo che descrive esattamente lo stato psicologico in cui ero prima di partire. Come ho già detto, stavo passando un periodo molto brutto. Le parole di questa canzone, che tra l'altro è colonna sonora di Into the Wild, che è un film che ho visto molto volentieri, e diciamo che è stato uno dei motivi per cui ho deciso anche di partire, insomma. Il testo che fa: mi rialzerò trasformando gli errori in oro, mi rialzerò, troverò la mia direzione magneticamente. E queste parole mi hanno veramente colpito, ed è la prima canzone che cito in quelle, insomma, come hai detto te, delle playlist in fondo al capitolo. Il perché della playlist è molto semplice, perché insomma io sono un appassionato di musica e diciamo che ascolto la musica che ricalca molto il mio stato psicologico del momento. Quindi secondo me questo libro non era completo se non descrivevo per filo e per segno cosa provavo tramite i brani, sia con cui sono venuto a contatto durante magari passaggi in autostop, oppure che mi ha fatto sentire uno che mi ha ospitato, sia proprio, io c'avevo l'iPod al tempo, ora non si usa più, però mi ero portato l'iPod, e diciamo che quello che vedevo, quello che esperivo, era mediato anche dalle canzoni che ascoltavo in quel momento. Quindi diciamo che è stato un connubio perfetto. E diciamo che ora, come associazione, come Three Faces, che mi ha, insomma, edito il libro, stiamo cercando di fare una playlist Spotify che raccolga proprio tutte queste canzoni in una playlist sola, insomma. Beh, il che mi porterebbe, perché il tempo è anche un po' tiranno, verso l'ultima domanda, ma prima ti vorrei domandare un'ultima cosa. A proposito di riferimenti, all'interno del libro ci sono una serie di canzoni, appunto, ma anche diverse, ho letto, citazioni letterarie che fanno riferimento a romanzi, autori, racconti disparati. Qualcosa su questo? Sì, insomma, stessa cosa sia per quanto riguarda la musica, sia per i libri che stavo leggendo. Ho un accenno proprio nelle pagine iniziali del libro a Evelyn, il racconto di Joyce nei Dubliners, dove c'è proprio questa voglia di partire, però di non partire, partire, non partire. Alla fine lei non parte, io invece parto, meno male. Poi lo stesso Into the Wild, il libro. C'è stato un libro, un romanzo di viaggio a sua volta di Eddie Cattaneo, che posso, insomma, sono venuto anche a vederlo qui in una presentazione a Firenze, del suo Mondo via terra, giro del mondo a piedi senza, insomma, prendere aerei. E lì, leggendo quel libro, proprio mi ha dato insomma la sensazione che andare a giro per il mondo fosse una cosa possibile, che non, tutte queste paure, tutto questo preoccupazione, tutti questi pericoli, alla fine sì, ci sono, però non devono paralizzarti, insomma, nel prendere questa decisione. E un altro libro è sicuramente La tamburina di Le Carré, che diciamo ho comprato in inglese proprio per esercitarmi nella lingua, molto, insomma, molto coraggiosamente, e la prima volta che l'ho aperto, insomma, sono un po' rimbalzato sulla descrizione del logo del primo delitto. Molto. Però poi alla fine l'ho finito. Questo è lo spoiler per il libro successivo, però alla fine l'ho finito e non è stato il primo libro in inglese che è l'unico libro in inglese che ho letto. Beh, a proposito di spoiler, allora io vi vorrei anche domandare che cosa bolle in pentola. Nel senso, all'inizio abbiamo raccontato di come l'associazione Trifacis sia nata e di quale sia anche la vostra storia. Oggi abbiamo anche festeggiato questo vostro primo libro. E come ultima domanda vorrei chiedervi a cosa state lavorando adesso, cosa avete in serbo per il prossimo futuro, insomma. Ok, allora prima di iniziare mi aggancio alla domanda prima, all'inizio, su come eravamo Sì, riorganizzati, perché sì, sì. sono un casinista io per fortuna sono circondato da tanta gente dell'associazione molto più seria di me, che tra l'altro saluto e ringrazio, Anch'io. perché senza di loro veramente noi tre saremmo andati veramente poco lontani. Ma, allora, praticamente per quanto riguarda Street Book Magazine, ora lo mandiamo solamente ai tesserati, ai soci dell'associazione, per cui se interessa la nuova tiratura per il nuovo anno, andate su trifaces.org e diventate soci. Con 5 euro diventate soci, con 18 complessivi vi assicurate anche tutta la tiratura dell'anno. Ok, questo per chiudere la Sì, parte prima, perfetto, perché certo. appunto mi ero disperso nei meandri dei cazzi miei. E allora, no, per quanto riguarda il nuovo anno, diciamo, purtroppo la situazione ci sta costringendo a limitare molto la parte di eventi, la parte di incontro con il pubblico, che per noi è vitale, è abbastanza centrale. Infatti avremmo dovuto realizzare un evento, tra l'altro un festival di 3 giorni a Milano, ospiti da Arcademy, i nostri collaboratori, insomma era un qualcosa che ci stava molto a cuore. L'anno scorso a marzo, ad aprile dovevamo farla, mi sembra. Saltò giusto appunto Per il meteo. così e per il meteo, esatto. E niente, appunto, mancando gli eventi, ora ci stiamo concentrando un pochino più su quello che possiamo controllare internamente, per cui ci stiamo buttando molto di più sul lato di produzione editoriale. Ora, oltre a Waltz in Matilda, di cui appunto ora stiamo mandando in stampa la seconda tiratura, abbiamo in cantiere. Sì, perché la prima infatti Ah, è ecco, sì, no, esaurita. esatto, E a sì. proposito di festival, fra l'altro, se non ricordo male, era proprio il festival della letteratura sociale che avete fatto le prime prevendite. Assolutamente, infatti è stato un momento bellissimo, perché veramente noi eravamo ancora, insomma, non avevamo ancora il prodotto fisico, se non una prova di stampa. Abbiamo portato quella, l'abbiamo mostrata al banchino e le prevendite sono andate molto molto bene. Infatti poi in 3 settimane abbiamo finito la prima tiratura di 110 esemplari e insomma è stata una bella. Magari ricordiamo, approfittiamo, stampata da Okra, Stampata da Ocra, e copertina di Bue. esatto, contiene appunto le illustrazioni e la Illustrazioni. copertina di Bue 2530, che insomma ringraziamo tantissimo perché insomma ci segue dall'inizio ed è veramente un grande, lo adoriamo. E niente, appunto, la prima tiratura si è esaurita in pochissimo. Ora stiamo mandando in stampa la seconda, poi dopodiché abbiamo in cantiere una graphic novel, un altro, diciamo, una fanzine, mi tratta della fanzine del romanzo breve, un formato abbastanza strano, illustrato, che scriveremo in maniera corale tra tutti i vari scrittori dell'associazione, che si chiamerà Apocalypse Party, e vedremo quando verrà la luce, però insomma è in cantiere. Epistole, che è una piccola fanzine illustrata tratta da uno scambio di mail che c'è stato durante il periodo del primo lockdown tra Benedetta Bendinelli e Niccolò Di Nascenti, illustrata da Federico Falaschi di Ocra e Giulia Brachi, che appunto racconta un pochino la situazione di chiusura del primo lockdown. con degli sviluppi abbastanza surreali, però insomma è stato un bel esperimento anche realizzarlo nel momento di chiusura, per cui tutto su tramite call, su Zoom, mail. Difficile ma divertente, perlomeno ci ha fatto sentire un gruppo anche in quel periodo, che poi è il lato un pochino più sensibile della situazione attuale. Anche per quanto riguarda noi, le riunioni sono un centro, veramente un momento settimanale centrale delle nostre attività, e poterle fare soltanto su Zoom attraverso uno schermo ci limita del 90%. Bene, quindi un sacco di sciccherie in programma, e allora un sacco di occasioni anche per invitarvi a questi microfoni, e speriamo anche negli eventi che in città si fanno. Ma mi stai facendo un cenno? No, ecco, perché mi sono dimenticato che tra l'altro, tra le varie cose in programma per il nuovo anno, per Streetbook Magazine, il numero di giugno sarà un numero speciale che realizzeremo in occasione dell'anniversario della morte di Dante, e abbiamo deciso di invitare degli scrittori, insomma, affermati, facendo un numero tematico su Dante, cercando anche un pochino di dissacrarne la figura. Tra i vari ospiti che già posso annunciare ci saranno Marco Vichi, Vera Gheno, Edoardo Rialti e vari altri, insomma. Tra cui ci sarà anche buon Gianluca. Trepidante attesa, non mancheremo anzi di riparlarne. Intanto ricordiamo allora i contatti, oltre al sito che hai già detto, trifaces.org, quali altri? Ecco, allora, praticamente noi siamo apertissimi sempre a nuovi collaboratori, cioè questa è una cosa che veramente mi sento di incitare, cioè se vi volete cimentare, che siate scrittori o illustratori, fotografi, disegnatori, quello che volete, perché poi comunque le nostre attività, appena riapriranno anche le attività dal vivo, si estendono a molti campi, per cui insomma se vi va di far parte del gruppo, di cercare di pubblicare su Streetbook Magazine o sui nostri vari canali, mandateci mail, contattateci a trifacespublish@gmail.com oppure tramite la messaggistica Facebook, social, Instagram, o anche via tramite il sito, cioè tutta la sezione per i contatti. Benissimo, grazie allora di nuovo a Simone Piccinni, presidente di Trifaces, a Gianluca Bindi, autore di Waltzing Matilda, per essere stati qui oggi insieme a noi. Simone, prima di lasciarci, la prossima canzone invece l'avete scelta voi di Trifaces. Sì. non proprio non tu forse io, ah, okay. Diciamo che comunque mi sento di appoggiarla, perché effettivamente è un qualcosa che anche voi sicuramente, appunto, Radio Wombat, la bandiera e così via, diciamo che operare nella cultura di questi tempi è un po' un gioco di equilibrismo, è un terreno molto molto particolare su cui muoversi, per cui appunto rappresenta abbastanza quello che sentiamo di vivere giorno per giorno. E quindi ci ascoltiamo il funambolo dei Ratti della Sabina. Grazie Gianluca, grazie Simone. Grazie a voi, grazie mille. Immaginario dell'orizzonte mentre volo. giro per paura che io cada, ma il mio equilibrio è in cielo come i sogni dei poeti, mai potrei vivere come voi che avete sempre la certezza della terra sotto i piedi. Sono maestro di pazzia e vola sulla corda almeno un oggi prima che diventi ieri, e provare a far danzare il tempo. Ci siamo di nuovo in diretta, sempre su Poyu It, sempre assieme a Edoardo Olmi, se mi sente. Ciao Edo, ci sei? Ciao Mario, ciao Wombat, ben ritrovati. Bene, a differenza della settimana scorsa, questa qua, i nostri potentissimi mezzi tecnologici funzionano ancora. E infatti è proprio perché la settimana scorsa non siamo riusciti a mandare in diretta perché saltava, o meglio l'abbiamo fatto ma con l'audio troppo saltellante perché fosse ascoltabile. Non siamo riusciti a mandare in diretta, dicevo, questo approfondimento che vogliamo fare un pochino adesso, ovvero un approfondimento di una rivista, un giornale a cui siamo molto affezionati per molte ragioni. Stiamo parlando del giornale di strada Fuori Binario, vero Edo? Esatto, esatto, sperando che, anzi sicuramente i nostri prodigiosi mezzi tecnologici questa volta ci assisteranno. Sicuramente. E già appunto durante nella prima puntata del nuovo anno avevamo aperto una finestra su questa collaborazione di Radio Wombat con il giornale di strada di Firenze Fuori Binario, e purtroppo appunto per qualche piccolo problema tecnico non siamo riusciti a farlo sentire, diciamo, bene in diretta e durante la registrazione. E quindi pensavamo di riaprire nuovamente questa finestra, che poi in realtà credo sarà un qualcosa anche nel lungo periodo, no? Eh sì. Perché speriamo tutti quanti che la collaborazione con Fuori Binario vada avanti il più possibile, e anche perché il giornale in questi giorni, in queste settimane, ho sentito, ho visto anche Roberto, che è il redattore di Fuori Binario, ho pubblicato una poesia sia sul numero di gennaio e un altro dovrebbe uscire sul numero di febbraio, che penso arriverà a breve, e chiaramente, come già un po' ascoltavo anche durante l'intervista a Three Faces, a Street Book Magazine, chiaramente anche Fuori Binario, come tutte le realtà, diciamo, di strada, no? In questo momento, in questi mesi, ha avuto anche Fuori Binario, insomma, le sue difficoltà a proseguire questo percorso, a resistere, però sta resistendo nonostante tutto, e quindi a maggior ragione vale la pena sostenerlo, perché penso che il lavoro che fa questo giornale, questa realtà, in questo momento, in questi giorni, in questo settimana, dove fra l'altro l'emergenza freddo e l'emergenza abitativa sono anche particolarmente sentite, penso che sia ora forse più che mai importante sostenerlo. Assolutamente, ma infatti proprio durante il primo periodo di lockdown, la scorsa primavera, avevamo proprio con Roberto svolto alcuni approfondimenti e abbiamo già visto quanto era drammatica allora la situazione dei senza dimora, e adesso appunto con l'ondata di freddo senz'altro è ancora più fondamentale, insomma, il loro lavoro anche di rete, di associazioni ed enti che sul territorio operano. A proposito comunque di collaborazioni poetiche e vombate sul giornale, ne approfitto quasi quasi per annunciare che già dal mese prossimo, non da febbraio ma da quello dopo, si riorganizzeranno un po' le nostre pagine, ovvero quelle quattro pagine dedicate alla radio diventeranno due pagine, però con l'intenzione nostra di far sì che tutto sia detto in una forma più discorsiva, mentre ora abbiamo operato un po' più con le sbobinature delle varie interviste e presentazioni che erano state fatte nelle varie puntate, fra cui ad esempio Scarceranda, che avevamo proprio qui assieme su Poyuit presentato. Ma di questo comunque annunceremo a tempo debito. Invece non è una novità la collaborazione tua, di Edoardo, con il giornale. Già a dicembre avevamo letto, ma prima ancora, la prima parte di Dicerie degli untori. A dicembre, se non ricordo male, la poesia la tua poesia dedicata ad Hassan al-Nassar, di cui ricorreva fra l'altro il terzo anniversario dalla morte. E invece appunto è una collaborazione che continua la tua, perché sia nel numero di gennaio che in quello di febbraio ci stavi annunciando di due poesie, una delle quali so che è proprio la prosecuzione, ovvero la seconda parte delle Dicerie degli untori. Sì, esatto, devo dire che anche appunto con Fuori Binario, con Roberto, tutta la redazione, il diffusore sta proseguendo una bella collaborazione riniziata, diciamo così, in occasione del terzo anniversario della scomparsa di Hassan al-Nassar, di cui Fuori Binario fu uno dei pochissimi giornali a Firenze a fare un ricordo fin nel dicembre 2018, nel gennaio diciamo 2018, quindi subito dopo la scomparsa di Hassan nel dicembre del 2017. È proseguito questo percorso appunto anche con dopo la pubblicazione della mia poesia Memoria di Hassan al-Nassar sul numero di dicembre 2020. Nel numero di gennaio 2021 è uscita una poesia che è dedicata a quel tema dell'emergenza abitativa, che in queste settimane, in questi giorni, sta ulteriormente diventando anche emergenza freddo, no? E mentre sul numero di febbraio uscirà la seconda parte di Dicerie degli untori, che è il testo sul tema, diciamo, del Covid, della pandemia, con tutto quello che ne è conseguito, che ho scritto, su cui sto lavorando, che dovrebbe uscire forse in apertura, penso a questo punto, del mio prossimo libro, e in particolare nel numero di febbraio di Fuori Binario verrà pubblicata appunto la fase 2, diciamo così, quindi la seconda parte di questo testo, di questa poesia di Dicerie degli untori, ispirata appunto alla cosiddetta fase 2 della pandemia da Covid-19. Ricordiamo magari, prima di leggere, se sei d'accordo, queste poesie, che Fuori Binario è un giornale autogestito, autofinanziato, e che è distribuito per adesso, ma con fierezza, in strada. Ci sono alcuni punti fissi, ma non solo, che se non ricordo male sono anche segnalati sul sito fuoribinario.org. Un'altra novità che però, già che ci siamo, annunciamo, è quella che appunto dal mese prossimo la volontà è quella di cercare una rete collaborativa con distributori altri, ovvero librerie, bar e in generale negozi e punti fissi solidali con il lavoro di Fuori Binario, che lo renderanno disponibile oltre la distribuzione in strada che già esiste e che continuerà, ecco. Beh, fra l'altro mi diceva Roberto che Fuori Binario, credo attualmente, poi cioè, ovviamente ci sono ovviamente realtà come Street Book Magazine che proseguono appunto questo percorso di arte, di poesia, di letteratura di strada e in strada, però come giornale, diciamo, ufficiale, fra virgolette, credo che Fuori Binario sia rimasto uno dei pochissimi giornali di strada attualmente a Firenze, quindi a maggior ragione penso valga la pena in questo momento aiutarlo, sostenerlo, sperando poi ovviamente che le sue ulteriori evoluzioni lo portino ad una fase ancora più espansiva, ecco. Certo, senza ricordare che ha una storia quasi trentennale, se non sbaglio è dal 94 che è distribuito e sempre in questo modo assolutamente eretico, direi. No, già che ci sono però ricordo anche che sul sito fuoribinario.org ci sono, ogni volta che viene pubblicato un nuovo numero, l'ultimo insieme a quelli prima ancora viene reso disponibile per la consultazione o il download sul sito, quindi incluse anche le poesie di cui stiamo parlando adesso, quelle fatte da te, pubblicate da te nei mesi scorsi, si possono rileggere appunto su fuoribinario.org. Non si possono leggere invece le due che qua stai per leggerci, una delle quali proprio in anteprima perché il giornale di febbraio non è ancora stato pubblicato. Beh, sì, non so se quella uscita dal numero di gennaio è già disponibile anche sul sito, sul blog di Fuori Binario, dove fra l'altro si trova anche la mappatura, diciamo così, di tutti i vari punti in città in cui è possibile trovare il giornale direttamente tramite i suoi diffusori. E come dicevi, appunto, nel numero di febbraio che deve ancora uscire ci sarà la seconda parte di Ciria degli Untori, che ho già avuto il piacere di leggere qua su Foglio It, e che, visto appunto chiaramente un testo scritto diciamo da maggio giugno scorso, no? Quando è iniziata un po' la seconda fase, dopo che la prima parte appunto della poesia raccontava, cercavi di raccontare i mesi tra marzo e aprile in particolare, però la sensazione che ho avuto è che appunto i mesi che ci attendono non saranno molto dissimili, ecco. Beh, ma allora io, Ancora per un po' forse. ancora per un po', io coglierei la palla al balzo e ti inviterei, se ti va, a leggerci la fase 2 o la parte seconda, non so, di Dicerie degli Untori. Sembra strano di parlare di fase 2, ma invece forse è appropriato. Ok, mentre recupero il testo, eccolo qua. Infatti, tra l'altro, diciamo, non a caso, sia la fase 1, la cosiddetta fase 1 e la cosiddetta fase 2 del testo sottotitolano fase 1 di fase 2 di, come a dire che ad maiora, no? Nel senso che di questo passo le fasi rischiano di essere tendenti all'infinito, no? E non sappiamo ancora per quanto ci trascineranno Eh sì. in questo percorso, insomma, fatto e costruito in questo modo. Quindi, diciamo, appunto, il senso che cerca di dare un po' il testo, il gioco di senso, il gioco poetico, anche un po' questo, no? Già, la fase 3 in qualche modo col trifase, raccontatoci da Simone Piccinni, è già stata in qualche modo toccata. Speriamo di non andare più avanti, ma intanto stiamo ad ascoltare dalla voce di Edoardo Olmi la fase 2 di Dicerie degli Untori, disponibile sul numero di febbraio di Fuori Binario. A te, Edo. Scusami un secondo, Mario, arrivo Scusa. subito, scusa un attimo. Dicerie degli Untori, fase 2, di Rave in equilibrio sull'elastico. Le feste di laurea sulle piste ciclabili, sgomitando affetti stabili di secondo grado, rimasti troppo tempo senza aperitivo sui navigli. Assembramenti dei rider al protocollo per le attività economiche già essenziali. Ma chi dai primi giorni a malapena ti scansava, adesso fa lo yoga in fila al supermercato. pane coperto servito sotto i patici, nel masticare un senso di horror vacuo fra i cuba libri offerti alla municipale, nella movida, a prova di aerosol, e schermi piatti con le cicatrici, dove è impossibile rimarginare un futuro, lapidato da parole apprese, affilate coi pronomi determinativi. I bagni turchi nelle librerie, sfogliando Hikmet con i preservi alle mani, ed il design di braccialetti accattivanti, per corteggiarsi nel restiamo a distanza, o app immuni, per mappare se anche vuoi, è prossimo alla soglia, DRT con zero. Sul profilo Facebook delle pari opportunità, le giornate per l'indipendenza dei nativi digitali. Perché il governatore medio non aspettava altro che un hashtag con cui giocare agli eroi mascherati e commentare il sacrificio della patria nostra è consumato, comodamente seduti sul portatile di casa. Pascolando fra i recinti del Ripartiamo Italia, ruminando breaking news nella Post-Truth Society, ma preparando assalti frontali ai virus della diffidenza e dell'auto da fè. E questa era la seconda parte di Dicerie degli Untori di Edoardo Olmi. Chissà se ne seguiranno ancora, per come sembrano andare le cose, direi, caro Edo, che ti toccherà scrivere ancora. Chissà, mi scuso per qualche piccolo problema tecnico, ma avevo il file digitale e avevo qualche problema sul file digitale. Quindi, insomma, spero che la lettura si sia sentita adeguatamente. Sì, sono soltanto in un paio di momenti, abbiamo perso l'inizio, ma hai recuperato rifacendolo, e in ogni caso, poi lo ricordiamo di nuovo, che sarà disponibile già dal mese prossimo, si potrà anche rileggere oltre che riascoltare in podcast. Ho controllato nel frattempo e no, non è ancora stato pubblicato il numero di gennaio, sul sito di Fuori Binario c'è fino a quello di dicembre, ovvero fino alla tua poesia dedicata ad Hassan, invece la poesia di gennaio non è ancora online, lo sarà sicuramente a breve, nel momento in cui sarà a breve, ecco. E allora io, se ti va, ti inviterei, anche se ce l'hai sotto, insomma, se l'hai pronta, a leggere anche la seconda poesia che hai pubblicato su Fuori Binario e che ancora sul loro sito non è stata pubblicata. Allora, eccola qua, direttamente dal numero di gennaio 2021 di Fuori Binario, che si apre fra l'altro con una bellissima copertina a colori, con tanto di calendario del nuovo anno, e dove ci sono appunto anche tre pagine, se non sbaglio, dedicate ad alcune delle trasmissioni di Radio Wombat. È uscito questo testo che è ispirato appunto, diciamo così, all'emergenza abitativa che in questi giorni, in queste settimane, come dicevamo, è anche e ulteriormente emergenza freddo per chi vive in strada. E questo testo, il cui titolo riprende fra l'altro una prima pagina di Fuori Binario, per l'appunto, se non sbaglio, del gennaio del 2017. Accasciata come morte, la notte del clochard, scalciato dai respiri, dai rantoli impauriti, in preghiera sull'altare contro il suolo, elemosina di passi nelle scarpe accovacciate, la coscienza sulle spalle, sotto la coperta del destino, condono dei mesi e delle settimane. È rimasto sullo stomaco alla metro B e C. Lo digeriranno di primissimo mattino con il palliativo delle cose, contro un'alba a cui chiedere perdono. Gonfia la placenta dell'indifferenza, reclamando il parto della sazietà, larva che non tesse seta dentro al sonno, ma ali per sogni strozzati dal vento. Raccolta indifferenziata di buoni propositi nell'incubatrice della modernità, con l'insonnia imbottigliata dentro ai clacson e la pioggia che gli cade nel caffè. Ogni gesto una speranza, una lettera di addio. Colpi di tosse ai suoi ruggiti, re di una savana sconsacrata, sospeso come un ponte senza fiumi. La sera in piazza, Eti di città. Il fegato presenta il conto. Ben più duro da digerire il freddo contro un vento salmodiante carità. Senza scelte ecologiche di banche di credito cooperativo, non urla gli slogan sull'altrui oscenità. L'ingiustizia, i pellegrini, la fanno di mestiere. Quella cosa che non sai cos'è, fino a quando non la provi. Davvero bella e toccante, grazie per condividere con noi questi tuoi versi. Beh, speriamo, anzi, sicuramente ancora per i prossimi mesi ti inviteremo a leggere ancora le tue pubblicazioni in anteprima, in attesa, ce l'hai detto prima, del tuo nuovo libro a cui stai lavorando, tuttora, giusto? Siamo alla seconda e quasi definitiva revisione, per adesso non anticipiamo ancora tempi vari, però sì, entrambi questi testi che ho letto e di cui vi ringrazio ancora infinitamente per lo spazio, che è sempre insomma un'emozione per me prima di tutto poterle condividere qua con voi su Radio Wombat, dovrebbero essere entrambi in questo nuovo libro a cui sto lavorando, ormai insomma siamo a un buon punto e che diciamo spero e uscirà, dovrebbe uscire a breve, per adesso non anticipiamo troppo. Non anticipiamo, ma non abbassiamo nemmeno la guardia e l'attenzione, ecco. Allora, io metterei Edo uno stacco musicale per ritornare come avevamo annunciato all'inizio, ancora col terzo tema di oggi, ovvero ancora versi, ancora poesie. E mi piacerebbe adesso mettere una canzone che mi pare adatta ad oggi, ovvero 14 febbraio del 2021. È morto oggi Enriquez Greppi della banda Bardot, aveva 60 anni a Firenze. Lo conoscevamo in tanti, era sicuramente un grande paroliere, oltre che una grande persona, è sempre stato vicino alla causa degli ultimi, me lo ricordo molto bene già dai tempi delle scuole, del liceo, quando ai nostri collettivi, alle nostre assemblee partecipava in prima persona e sicuramente ci ha fatto anche tanto sorridere, a qualcuno anche senz'altro tanto incazzare. Noi, se sei anche tu Edo, so che sei come me legato alla storia e alla musica della banda Bardot, e allora se sei d'accordo io metterei una sua canzone, che peraltro di poesia parla, non mi ricordo il titolo, è Sogni grandiosi, in cui non si mangia con la poesia. Io Edo la metterei e poi ci risentiamo dopo per l'ultima parte di trasmissione, va bene? Beh, assolutamente sì, direi come si faceva a non essere legati a Enriquez della Bardot, che è una persona insomma che con la sua musica, con la sua poesia, che è stato parte della vita di tutti noi, insomma, non solo in questa città, ma penso insomma in tanti altri luoghi, ha fatto parte della colonna sonora e della poesia di sicuramente almeno due o tre generazioni. Senza contare quelle che infatti anche verranno, di sicuro. Beh, noi esatto. Gli facciamo un grande saluto. Ciao Enrico Bello, mettiamo Sogni grandiosi e a fra poco. Bisognerebbe fare sempre sogni grandiosi e con la faccia verso il cielo viaggi avventurosi. Ma tu mi dirai, è poesia e non si mangia, sai, con la poesia. Bisognerebbe fare sempre sogni grandiosi, con la faccia verso il cielo, viaggi avventurosi, e pensa se la gente invece del potere pensa se all'amicizia come modo per godere. Come capi indiani magia si fuma per la pace, ma tu mi dirai che poesia si mangia con la poesia. Devo salvar la testa perché dentro c'ho il cervello. E come il papilone volare via spezzando il filo. E dove si può volare e non smette di pensare, dove si può volare, dove si può volare e non smette di pensare, dove si può volare. E animo, animo, animo, animo, i tempi duri passano. Fare sempre sogni grandiosi per combattere la noia e la nevrosi, e se ancora non ci credi fai come vuoi, io mi lancio verso il cielo, apro le braccia e poi lo vedi si può volare e non smetter di pensare. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Ci siamo sempre in diretta, sempre assieme a Edoardo Olmi, a cui fra l'altro chiederei, beh, l'hai sentita la canzone e dici, Edo, è vero che non si mangia con la poesia? Mario, se non me l'avessi chiesto tu, ne avrei parlato sicuramente io, nel senso che sono parole da cui qualsiasi poeta non può che sentirsi toccato, oltre che direttamente coinvolto, no? E sono parole che ci riguardano sicuramente tanto, quante volte ci siamo sentiti dire o ci sentiamo tuttora dire ma questa è poesia, non solo non si mangia con la poesia, ma addirittura qualcuno diceva e scriveva anche le mie poesie non cambieranno il mondo, no? E, beh, chi lo sa, nel senso, sicuramente non basta la poesia da sola per cambiare il mondo, però persone come Enriquez della Banda Pardoggi dimostrano che con la poesia, tramite la poesia, si può volare, no? E veramente si possono immaginare e portare fra la gente cose che, come quelle che Enriquez ci ha donato e ci ha regalato tutti quanti per così tanti anni, per così tanto tempo, e che penso resteranno ben oltre la sua scomparsa tragica di oggi, e saranno, penso, qualcosa che caratterizzerà ancora, continuerà a vivere e a pulsare anche negli anni non semplici che ci aspettano, nelle nuove generazioni che penso cercheranno delle risposte importanti come l'abbiamo fatto noi nelle parole e nei versi di Enriquez. Penso anch'io, sicuramente, anzi direi, sicuramente nonostante sia vero appunto per tutti, direi i poeti, lo stesso, ancora più stima perché c'è ancora più bisogno di non mollare nonostante le condizioni evidentemente avverse alla poesia e ai poeti, eppure chi come te tiene duro mi sembra sia ancora più importante. E a proposito di poesia, non fermiamoci ai versi, alle parole di Enriquez Greppi ed Edoardo Olmi, perché sono ancora due gli autori di cui vogliamo parlare oggi, ovvero chi, Edo? Beh, in questo piccolo, insomma, piccolo e grande ricordo, direi, che abbiamo fatto di Enriquez, mi ha dato il là anche in qualche modo per aprire una finestra su un altro personaggio legato a sua volta a una persona, un poeta che abbiamo conosciuto bene e ricordato anche più volte qua a Poiuit su Radio Wombat. Questo personaggio, nonché uno dei, penso, maggiori poeti viventi attualmente in Europa, si chiama Ghesim Haidari, è un poeta di origine albanese, esule, che è stato tanti anni in Italia a Frosinone, attualmente vive a Londra e negli anni, diciamo, è stato considerato uno dei poeti d'esilio più importanti ancora in attività che ci sono in Europa e forse nel mondo. Ghesim Haidari, oltre a pubblicare per Edizione Ensemble, che è la casa editrice anche con cui curiamo la collana editoriale del progetto di Affluenti, è direttore anche di una collana editoriale a sua volta, di una collana di poesia, che è una, diciamo, penso, delle, forse veramente delle collane più importanti in qualche modo che ha Edizione Ensemble e che forse ci sono nella poesia in Italia, in particolare nella poesia della migrazione in Italia. Questa collana è la collana di Erranze, ispirata appunto a varie vicende di, come dire, personaggi erranti nel presente e nella storia, di cui quest'oggi vi proponiamo due libri in particolare, due letture da due libri. Il primo è Cresce dentro di me un uomo straniero, che è proprio l'ultimo libro di Ghesim Haidari, che racconta un po', come dice il titolo stesso, questa sua ulteriore vicenda di esilio dall'Italia, che lo ha portato da un paio d'anni, credo, a questa parte, a Londra. Dopodiché farò, diciamo, due letture da una delle ultime uscite della collana di Erranze curata da Ghesim, che è la prima pubblicazione in Italia dell'unica opera poetica di cui si abbia notizia, di un poeta coreano che si chiamava Yoon Dong-yu, spero sempre di essere riuscito a pronunciare bene il nome, poeta simbolo della resistenza coreana contro l'occupazione giapponese fra la prima e la seconda guerra mondiale. Poeta morto in carcere durante appunto la resistenza del suo paese contro l'impero giapponese, e la sua unica opera, che si chiamava, se non sbaglio, vediamo se il titolo è quello corretto, esatto, la sua unica opera, Cielo, Vento, Stelle e Poesia, l'unica che lui scrisse, riuscì a scrivere prima di morire in carcere, è stata pubblicata postuma ed è stata editata per la prima volta in Italia per la collana di Erranze con il titolo di Vento Blu, appunto da Edizione Ensemble per questa collana. Inizierei se... È già stato pubblicato? È già stato... Sì, vero. Quest'anno? Sì, è già, ce l'ho qua, stavolta non in digitale, ma ce l'ho bello fisicamente in cartaceo qui con me, Vento Blu, Cielo, Vento, Stelle e Poesia, con testo originale coreano a fronte, fra l'altro, e se vuoi Mario ne parlerei in modo un attimo più approfondito con letture, subito dopo aver letto da Crescere dentro il mio straniero, perché mi piacerebbe, se ti va, se ci va, leggere in particolare da questo ultimo libro di Ghesim Haidari una poesia che, come dire, Fra le varie poesie molto significative del suo libro era quella che inevitabilmente mi avrebbe in qualche modo toccato forse anche di più, perché è un poema, più che una poesia, che è un autore molto legato ai poemi epici della sua terra, l'Albania del Nord, e ha questo anche un po' stile poetico. È un poema che si intitola Elegia per i miei amici poeti esuli, in cui Ghesim Haidari racconta varie vicende di esilio che lui ha conosciuto fra i suoi amici poeti, per l'appunto, che ha incontrato negli anni in Italia e che hanno avuto o avevano avuto, perché alcuni purtroppo sono scomparsi, vicende simili o molto simili alla sua. Fra questi c'è anche una parte dedicata a un poeta esule di nostra conoscenza, amico oltre che collaboratore di Ghesim Haidari, ovvero appunto Hassan Atiyah al-Nassar. E se me lo concedi, Mario, inizierei proprio leggendo parte di Elegia per i miei amici poeti esuli di Ghesim, dedicata ad Hassan. Con vero piacere, certo. Allora, il testo di Ghesim Haidari, Elegia per i miei amici poeti esuli, inizia con queste parole. La paura di morire in un'altra lingua, nelle stanze sgombre, senza sepoltura, tormenta gli esuli in Occidente. I miei amici poeti se ne andarono giovani, morirono in povertà, solitudine e disperazione. E proseguo più avanti con queste parole. Hassan Atiyah al-Nassar è morto a Firenze, dopo un esilio infinito di 40 anni, inseguito dai veleni delle città d'Occidente, migliaia di chilometri dall'antica terra dei due fiumi e dalla notte sumerica. Chiamava l'Iraq paradiso dello spirito, ad alta voce davanti ai passanti, ma nessuno rispondeva al suo richiamo. Morì dicendo: perché l'amato Iraq si trova lontano e io provo nostalgia? Fuggì da Nassiria con la luna calante, rifiutando di combattere contro l'Iraq, di sparare oltre il confine, uccidere donne e bambini, anziani in preghiera, pastori e cammelli, Meuzin e soldati. Il destino lo portò a Firenze, è una città crudele, gli sussurrò l'ombra di Dante Alighieri, mentre passeggiava lungo il fiume Arno in una notte d'inverno. Disoccupato, per guadagnare qualche maledetta lira, il poeta di Ur faceva il posteggiatore abusivo di macchine nei parcheggi fiorentini. Iddio non fu per niente clemente con te, ti ha torturato fino all'ultimo giorno, pur sapendo che hai vissuto una sola volta. Quando giunse in Italia aveva 20 anni, trascorse l'esilio bevendo nelle locande notturne, bevendo vino nelle locande notturne offerto dagli amici. Il veleno dell'alcol gli penetrò nelle vene, lo uccise lentamente. Chi non ha conosciuto Ur, Abramo, Gilgamesh, Hassan al-Nassar, non può capire cosa sia la sofferenza, gridava per le strade di Firenze. Morì a 60 anni abbandonato, in un tugurio senza luce, nei gas, alla testa del vecchio letto, i manoscritti come a manetta. Nel suo volto, solitudine, povertà ed immensa disperazione. L'antica Babilonia piange il suo profeta. Se ne andò senza salutare la donna che gli donò la camicia invernale nell'estate, la fanciulla che ricamava la notte per lui, senza chiudere un occhio, la vecchia che gli regalò una coperta, sua madre che lo aspettava da 30 anni a Nassiria. Come potevi tornare in patria con il sapore della sconfitta negli occhi, mentre il tuo Iraq non c'è più? I tuoi fratelli uccisi dalle bombe, le palme falciate dai proiettili, la biblioteca dei poemi epici dei Sumeri a Baghdad, data alle fiamme. Il tuo Iraq divorato, nemmeno un posto per seppellire i morti. Cammini verso la tenda degli ospiti, dove non piove né tira vento, privo di tempo, dove c'è vino per tutti, attraversando città ferite e templi profanati. Ti offriranno una tazza di tè, essenza della tua terra, verdura fresca e pane di grano, le vergini fanciulle. L'ira della morte è sola e lontana, oltre la torre di Babele, la patria tradita, sfigurata, il paese natale incendiato dal fuoco nemico. Il Mediterraneo seminato dei fratelli annegati, dispersi nel mare coi barconi, dispersi per il mondo, scampati dalla guerra. Ti daranno da bere acqua del pozzo, berrai con le mani tremanti, annate per essere baciate. Non ti sentirai più solo, con il tuo nome, nelle città fantasma dell'Occidente. Non ti manderanno più al campo di battaglia, battaglia della sciagura, voluta dai potenti. Cammini verso l'Iraq, riso perduto, supererai l'oblio, il pianto delle vedove e i morti di Ur. Canterai come allora i seni delle donne, hanno lasciato segni sacri sul tuo corpo. Non ti sentirai più strano con te stesso, né con coloro che ti hanno amato. Vivrai tutte le vite che vuoi. Figlio di Adamo, sarai tu. Lui, no. Tu torni verso il paese senza canti, verso il paese delle vedove, con morti senza tombe, verso una casa povera, distrutta dalla follia umana. Tu torni verso le finestre spalancate, dove soffiano sabbia, echi di bombardamenti, verso l'esilio. Scordati dell'Iraq. Non vedrai più le rovine dell'antica Babilonia, né le danze funebri dei morti inebriati, assetati dalla stagione della pace, le città nude, sprofondate nel cuore dell'inferno. Non ci sarà nessuno che ti perseguita, con la spada pazza dei Sumeri, hai superato l'oblio, le pietre preziose di Gerusalemme. Ora, coperto dal buio di ghiaccio, al di là delle macerie e della violenza cieca, sotto la terra scura di Toscana, hai sopportato una vita che presto è finita. E poi continua ancora questa poesia di Gezim, davvero molto bella, molto toccante, non solo come lo sarà di certo per chi ha conosciuto Hassan Tialnassar. È un libro che io ho il piacere di avere davanti, in mano, e lo sto accompagnato alla lettura, sfogliando anch'io le pagine del cartaceo, perché proprio da te, Edo, all'ultimo Festival della Letteratura Sociale, organizzato in Polveriera a settembre, ho preso questo libro, Cresce dentro di me un uomo straniero, che è stato pubblicato proprio nel 2020. Davvero un libro importante, l'ho letto e ovviamente, ma direi che non c'è bisogno che lo faccia io, lo consiglio tantissimo. Ho letto fra l'altro in quarta di copertina che Gezim Haidari ha scritto anche numerosi racconti di viaggio, libri di viaggio e anche saggi sulle terre e i posti da lui toccati, da lui visitati. Senz'altro anche questo è interessante per i molti che immagino dall'inizio ci hanno ascoltato e che appunto è proprio dalla letteratura e dalla narrativa di viaggio che eravamo partiti in questa puntata di oggi. Davvero una poesia importante, un libro straordinario. Cresce dentro di me un uomo straniero. Erranze è davvero una collana importante, sono d'accordo, hai fatto molto bene a ricordarne i tratti all'inizio. Ed è sempre per Erranze che è pubblicato anche il secondo poeta di cui vogliamo parlare oggi, vero Edo? A meno che, scusami, stavo già andando oltre, ma tu magari vuoi dirci ancora qualcosa di Gezim? Beh, in realtà hai già toccato molti punti appunto sia del libro che della poetica di questo personaggio, diciamo, e autore molto importante che abbiamo avuto in Italia per tanti anni e che come un po' anche Hassan, se vuoi, sono quegli autori, quegli scrittori che hanno iniziato, no, a caratterizzare la letteratura in Italia anche per quanto riguarda la cosiddetta poesia e letteratura transnazionale, no? Quindi gli autori che arrivando da altri paesi del mondo adottano, diciamo così, l'italiano come loro lingua principale di scrittura, fra l'altro come sai, insomma, avendolo anche tu davanti in questo momento, in Cresce dentro di me un uomo straniero c'è anche il testo albanese a fronte, sì. Il testo originale albanese a fronte, che credo che Gezim si sia autotradotto, credo che abbia tradotto lui direttamente la sua stessa poesia dall'albanese all'italiano, visto che fra l'altro si occupa, oltre che dei libri di viaggio, come visto che siamo in tema appunto anche con il libro di Gianluca Bindi, e di Sim, oltre che di scrittura di viaggio e di saggi, si occupa anche di traduzione, ha tradotto molti autori albanesi in italiano e viceversa autori italiani in albanese, nonché la sua stessa poesia in entrambi i mondi, no? Perché poi ogni lingua, ogni cultura è un mondo vero e proprio e la traduzione insomma lo dimostra. E sicuramente Gesim credo attualmente insomma sia considerato tra i poeti viventi in attività in Europa, tra i più importanti che ci sono, ha vinto molti premi, ma insomma al di là di questo io ho avuto anche il piacere di conoscerlo personalmente una volta a Roma, veramente mi ha fatto effetto da un lato leggere questa poesia che ho appena letto, perché ovviamente il paragone non c'è minimamente paragone, ovviamente, però mi ha fatto effetto per il semplice fatto che anche la poesia che ho scritto io su Hassan, come un po' questa di Gesim, mette insieme, diciamo, ricordi, no? Aneddoti su Hassan come personaggio storico, ha alcune suggestioni, immagini che arrivano dai versi stessi di Hassan Adi al-Nassar, no? Che chiaramente tu, Mario, che hai letto Il Labirinto, per esempio, forse anche Rovi sull'acqua babilonese, forse hai potuto cogliere, ci sono proprio alcuni passaggi di alcuni testi anche dal Labirinto in questa poesia di Gesim, e appunto, no? E quindi diciamo fa effetto perché in qualche modo anche in questa poesia di Gesim è come se fosse anche un po' Hassan che parla, no? Tramite Gesim, e mi fece effetto, mi ricordo quando conobbi Gesim Haidari, accorgermi in certi momenti come, cioè, veramente lui aveva lo sguardo di Hassan e a volte proprio sapeva chiaramente, insomma, gli affluenti. Io gli feci dono anche di una copia del Labirinto che poi scoprì che lui già aveva, fra l'altro, questa l'era anche letta perché mi citò alcuni passaggi, insomma, anche della prefazione e della postfazione mia di Marco, e mi fece effetto proprio in alcuni momenti, cioè io ci vedevo lo sguardo di Hassan e quel bagliore, no, che aveva Hassan negli occhi in alcuni momenti, e anche proprio in alcuni modi, no, di gesticolare, a volte di parlare di Gesim, mi sembrava veramente di rivederci Hassan Adi al-Nassar. Quindi erano, tra l'altro, nel 2005, se non sbaglio, fu proprio Gesim Haidari a consegnare ad Hassan Adi al-Nassar il premio Poesia Migrante, se non sbaglio, a Cervara di Roma, in occasione del quale Hassan Adi al-Nassar scrisse Vergine nell'inverno, poesia contenuta nel Labirinto, e la cui parte finale è anche l'epitaffio che abbiamo messo nella lapide ad Hassan al cimitero di Trespiano. Lo rammenti a mente? Sì. I versi di sì, No, no, ma scusa, ma perché penso di ce sì, dovrei ricordarmi tutti quanti. li dici? I poeti non hanno terra, né patria e casa. I poeti possiedono lucchetti con chiavi perdute. Camminano sull'ultimo filo del buio, tornano sul primo filo dell'aurora. Come possono abbandonare questo campo di Eden? Beh, e a proposito di finali, secondo me non è nemmeno scontato, se posso farlo, leggere l'ultimissimo verso dell'elegia per i miei amici poeti esuli, questo poema appunto di Gesim Haidari, da cui hai letto il ricordo di Hassan, che fra tanti amici poeti esuli, senza patria o senza vita, insomma, almeno fisica, raccontati dopo tutta questa rassegna di persone, anime disperse per il mondo, conclude con "Io sono ancora vivo, resisto sulle colline della Ciociaria". A proposito di legame con l'Italia e anche di geografia, insomma, di come tante volte una geografia fisica non sia in fin dei conti che una geografia dell'anima. Beh sì, diciamo, fra l'altro appunto questo dimostra a livello filologico che questa elegia probabilmente è stata scritta da Gesim prima della sua Sì, partenza Londra, per la sì. Gran Bretagna, dove credo viva a Londra, se non sbaglio, comunque sicuramente in Gran Bretagna ci sono vari testi che raccontano questa sua prima esperienza nel Regno Unito, appunto, da ulteriore esule. Questo stesso libro, come dice fra l'altro l'introduzione di Fulvio Pezzarossa, che fra l'altro, piccolissima parentesi, ha scritto la prefazione a un altro libro in uscita per la collana di Affluenti, che è Diramazioni di Bartolomeo Bellanova, autore di Bologna, e che non, sarebbe bello se ci va anche invitare però nelle prossime puntate con Yumit. E diciamo, come scrive Fulvio stesso, questo libro è un po' un travaso, no? Se poi è un po' il trasloco poetico che Gesim fa dall'esilio ciociaro a quello inglese, no? A quello nella Gran Bretagna. Quindi ci sono alcuni testi scritti qua in Italia e alcuni che raccontano già la vicenda dell'esilio inglese e anglofono. Fra l'altro, altra curiosità, visto che citavi gli ultimi versi ciociari appunto dell'elegia di Gesim, ovviamente consiglio ai lettori sicuramente di cercare questo libro, perché come tu stesso dicevi, tra l'altro non mi ricordavo, Mario, che l'avevi preso al Festival di Letteratura, ma è vero, mi ci hai fatto pensare, mi sono ricordato, e anzi, bello insomma che tu insomma e anche agli altri di Radio Wombat della radio, insomma, anche già vi siete interessati a questo autore e a questa collana editoriale. Collana che avevo scoperto con Itsu, fra l'altro. È vero, perché uno degli altri, diciamo, colpi della collana, fra l'altro c'è un aneddoto che trovate, non ve lo anticipo, ma lo potete trovare in un'intervista di Silvia Rosa a Matteo Chiavarone, che è il direttore editoriale di Ensemble, dove Matteo raccontando come è nata Edizioni Ensemble, racconta come è nato l'incontro con Gesim, che ha pubblicato tre libri, se non sbaglio, con Ensemble, ed è anche appunto direttore della collana di Erranze. Ma come poi Gesim lo ha convinto ed è riuscito a pubblicare in Italia, in anteprima, per la prima volta in Italia, le poesie di Zorno, che erano appunto inedite in Italia e che sono uscite per la prima volta in traduzione italiana con la collana di Erranze diretta da Gesim Haydari. Altro piccolo aneddoto, ovviamente consiglio di scoprire, diciamo, tutti gli amici poeti esuli dell'elegia di Gesim raccontati nell'elegia di Gesim Haydari, in questo suo ultimo libro, Cresce dentro di me un uomo straniero, tra cui appunto Hassan Nakhi Al-Nassar. Ho scoperto, perché io stesso non lo sapevo, che un altro poeta esule, Elenio Oliveira, poeta, credo, insomma, dalla lettura del testo di Gesim, nato in Brasile, e suo padre era un bianco, sua madre era originaria appunto del Brasile, e lui, diciamo, credo per tutta la vita soffrì, no, anche questa condizione, anche dal punto di vista sociale, no? Perché sappiamo chiaramente il forte imperialismo che c'è stato, il colonialismo che c'è stato in Sud America e da parte degli europei, degli occidentali, nei confronti delle popolazioni autoctone. Lui, che era misto, diciamo così, soffrì un po' per tutta la vita questa, diciamo, sua condizione, sia da un punto di vista sociale quanto esistenziale, che poi emerge, no, anche nella sua poesia, nella sua poetica, come racconta l'elegia stessa di Gesim. Elenio Oliveira, da quello che si ricava leggendo il testo di Gesim, ha vissuto lui stesso per molti anni come esule a Firenze, quindi è morto poi in Portogallo, lo racconta insomma Gesim nella sua poesia, però è un altro personaggio che io non conoscevo, fra l'altro, ma che altro poeta che è stato in esilio in questa città e che, come Hassan Nakhi Al-Nassar, purtroppo è stato, diciamo, un po' così, insomma, messo da parte da tutto un mondo, diciamo, da tutte le belle lettere di cui parla, se non sbaglio, a un certo punto anche Gesim nella sua poesia. Tutto davvero molto interessante, andremo ancora, immagino, a fondo un po' di questa collana, ci saranno senz'altro altri autori, altri temi da toccare, ma se abbiamo concluso la poesia di Gesim con la resistenza e la sua resistenza ciociara, di un'altra resistenza, della resistenza antinipponica, invece è in qualche modo emblema l'autore di cui stiamo per parlare adesso, giusto? Sì, perché appunto particolarità ulteriore della collana di Erranse è il fatto che non so come faccia Gesim, ma oltre a autori come Itzo, ad esempio, che sono insomma scrittori già sono stati, perché purtroppo è scomparso anche Itzo, ben conosciuti, no? Insomma, anche a livello europeo, e Itzo in particolare è uno scrittore di Marsiglia. La collana di Erranze va a pescare, diciamo, autori a volte già, diciamo, scomparsi, a volte scomparsi anche da un po' di tempo, che hanno avuto vicende appunto particolari, no? A volte in esilio, a volte sono stati prigionieri, spesso sono stati oppositori politici come Gesim, spesso sono stati perseguitati e purtroppo in alcuni casi, come questo autore di cui andiamo a fare due letture adesso, sono morti giovani, a volte anche molto giovani, in virtù della loro, diciamo, irriducibilità ai meccanismi di potere, ai meccanismi di dominio delle loro epoche. Uno degli ultimi libri usciti per la Collana di Erranze è, appunto, come accennavo prima, la prima edizione in assoluto in Italia di questo poeta coreano, Yoon Dong-yu. Ve ne leggo proprio brevemente anche dalla quarta di copertina del libro. Yoon Dong-yu è uno dei poeti della letteratura coreana del Novecento più amati in Corea. Vissuto fra il 1917 e il 1945, nel piano della colonizzazione giapponese, è considerato uno dei principali poeti della resistenza del suo paese. I testi della sua raccolta pubblicata postuma, Cielo, Vento, Stelle e Poesia, che per questa edizione italiana è contenuta in Vento Blu, riguardano l'intero periodo della sua produzione letteraria, dal 1934 al 1942, e mostrano la graduale crescita artistica e spirituale del poeta. Yoon Dong-yu, il cui nome d'arte era Haiwan, sempre sperando di essere riuscito a pronunciarlo bene, morì prigioniero nel carcere di Fukuoka, appunto nel 1945. Prigioniero appunto dell'impero giapponese, che in quel momento era, diciamo, dominava, no? La Corea, dominio che poi finì con la Seconda Guerra Mondiale, e, in cui, alla fine della quale probabilmente l'autore stesso morì appunto in carcere. E appunto la Collana di Erranze è riuscita, è andata a ripescare questo autore, che morto giovanissimo, perché nato nel 17, morto nel 45, aveva avuto modo, diciamo, di portare a termine una sola opera poetica di ampio respiro, fra l'altro inedita versione in Corea, perché è stata pubblicata postumo dopo la sua morte, dopo la sua scomparsa, e niente meno che nel 2020, se non sbaglio, è uscita per la prima volta anche in Italia. Tra l'altro, appunto, il libro è suddiviso in che prende il titolo di Vento Blu, questa edizione italiana, ma il titolo originale dell'opera di Yoon Dong-yu era appunto Cielo, Vento, Stelle e Poesia, che è il sottotitolo anche di questa edizione italiana, che contiene sia le poesie di questo libro, più un'altra sezione molto ampia di altre poesie, che quindi credo siano altre tesi scritte dall'autore prima di morire, ma che non sono rientrate in questa raccolta. C'è il testo coreano a fronte, come dicevo, e ultima piccolissima parentesi prima di iniziare la lettura di questi testi da Vento Blu, questa edizione italiana ha la postfazione di Alice Loda, che è una docente, ormai l'ho conosciuta quando era dottoranda all'Università di Sydney, tanto per rimanere in termini, diciamo, australi, che contattò Hassan nel 2016, se non sbaglio, forse era già poco prima che poi Hassan morisse a fine 2017, perché aveva inserito Hassan Afianassar nel suo lavoro di dottorato sulla poesia della migrazione in Italia, dove per l'appunto era inserito anche Gesim Haidari e Barbara Kumosel, che è un'altra autrice che abbiamo presentato qua su Radio Wombat, sì, il cui libro Un confine in comune è in uscita insieme a quello di Bartolomeo Bellanova a marzo, il mese prossimo, con postfazione di Alice Loda. E Alice, tra l'altro, la sto sentendo in questi giorni, infatti la saluto tanto perché credo ormai sia già diventata mamma di una bellissima bambina di cui aspettava l'arrivo proprio in questi giorni, e ci stiamo sentendo anche perché il suo lavoro di dottorato verrà pubblicato e appunto c'è una parte molto importante ci sarà probabilmente una parte molto importante dedicata alla poesia, all'analisi credo proprio stilistica anche della poesia di Hassan Afianassar, oltre che di quella di Barbara Kumosel, ad esempio, e di Gesim Haidari, è anche da un punto di vista comparativo, no? Quindi sia relativamente a ogni singolo autore, ma anche relativamente a ognuno di questi autori, diciamo, tra i più importanti della poesia dell'emigrazione in Italia degli ultimi anni, in comparazione anche ad altri autori che hanno avuto percorsi simili di esilio, di migrazione, e quindi di incontro fra il loro background linguistico-culturale e la lingua italiana. E quindi, diciamo, sono varie erranze che si incontrano, no? E in questi tempi un po' strani che stiamo vivendo. Davvero sì, abbiamo trovato tanti di quei fili rossi in questa puntata che non ripariamo né finiamo, anzi direi che ci riproponiamo di tirare un po' lunghi alcuni di questi discorsi e di portarli avanti con le prossime puntate di Poyo It, se sei d'accordo. Beh sì, penso sarebbe bello, perché è bello vedere come poi la poesia veramente anche spesso anche indipendentemente da quello che uno cerca, no? Ma è lei stessa che a volte ti porta nell'erranza che è l'essenza stessa della poesia, no? La poesia è un'erranza dell'essere, dell'animo, insomma, del corpo, no? Dell'esistenza, poi ti porta ad incontrare altre erranze e questi fili a volte si cucinano, no? In modo a volte impensabile, no? Una persona che attualmente è docente, è dottoranda a Stibili, con cui appunto si apre un percorso, una collaborazione anche così bella. E che fa incontrare, no, percorsi così diversi fra di loro, perché sono poi comunque anche diversi, no? Sia per percorsi che per poetiche, Hassan, Gesim e Barbara Comosel, che però le cui, diciamo, vicende poi si incontrano, per esempio, in questo lavoro di Alice, che speriamo tutti quanti presto di poter avere, insomma, e di poter far conoscere insieme a questi autori ulteriormente anche qua su Poiwit. E lo diceva anche Ungaretti che la vita è l'arte dell'incontro, infatti, a proposito di incontri. Saluto anch'io, mi aggiungo anch'io ai saluti e agli auguri ad Alice. Ci leggi qualcosa adesso? Siamo ansiosi. Allora, d'Avvento Blu, prima edizione italiana delle poesie di Yung Dong Yu, pensavo di leggere due testi che mi hanno anche un po' ricordato, se devo essere sincero, mi hanno anche un po' ricordato, diciamo, i vari stati d'animo che ci hanno attraversato in quest'ultimo anno, no? In questi mesi di pandemia, e fa effetto, no? Vedere come autori vissuti dall'altra parte del mondo che hanno scritto 70 anni fa ormai riescono a essere ancora così attuali, no? Come la poesia riesce a parlare oltre le epoche e oltre a distanze fisiche, no? A volte in modo anche inaspettato. Il primo testo che pensavo di leggere di Yung Dong Yu, da Vento Blu, si intitola Strada. L'ho smarrita, non so come, non so cosa. Rovistando le tasche con le mani, procedo per la strada. Pietra dopo pietra, un muro si estende senza fine ai lati della strada. Il cancello nel muro di pietra è stato serrato con forza. La lunga ombra si proietta sulla strada. La strada collega il mattino con la sera e la sera con il mattino. Rasentando il muro di pietra piango e se guardo il cielo azzurro provo vergogna. Mi ostino a percorrere questa strada arida solo perché al di là del muro ci sono io. L'unica ragione per cui vivo è per trovare quello che ho smarrito. Molto intensa questa prima poesia strada. E il secondo testo invece, tratto sempre dal Vento Blu, è una poesia che, diciamo, mi ha suscitato anche, visto il progetto che abbiamo anche con Affluenti, è un testo che si intitola Il ruscello di montagna. Persone sofferenti, con i lembi dei vestiti nelle onde, scorre profonda l'acqua nel cuore. Questa notte non c'è nessuno con cui conversare. Non posso neppure cantare per il tramestio che viene dalla strada. Rassegnato, sono ormai seduto sulla riva, ho lasciato l'amore ed il lavoro lungo la strada. Con calma, andiamo al mare, andiamo al mare. Beh, che scoperta, non l'avevo mai letto, mai nemmeno sentito i suoi versi, li sento oggi da te anch'io per la prima volta. Un libro pubblicato nel 2020, questo Vento Blu, Cielo, Vento, Stelle e Poesia. Su edizioniensemble.it ci sono entrambi, giusto? Sia Yun Dong Yu e sia Gezi Maidari si possono acquistare direttamente dal sito di Edizioni Ensemble. Sì, assolutamente sì, sono disponibili sul catalogo della casa editrice e nella sezione poesia ci sono le varie sottosezioni dedicate alle collane editoriali, tra cui appunto la collana di Erranze, per la quale sono usciti entrambi nel 2020, se non sbaglio, e anno in cui appunto i confini si sono ristretti, no? Le distanze sembrano essersi ulteriormente allungate, ma è bello, no? Che ci arrivino queste voci a ricordarci che continuiamo ad essere tutti parte di uno stesso flusso, no? Che continua a scorrere, di cui la poesia poi cerca di trovare, no? I suoi cunicoli in cui infilarsi, no? E il suo modo, diciamo, di tradurre questo flusso che ci riguarda tutti quanti con quello che è un po' il mestiere della poesia, no? Quello di rompere confini e di creare, diciamo, incontri fra vari tipi di erranze. Queste due opere, Cresce dentro di me un uomo straniero di Ghesim Haidari e Vento blu di Hugo Dong-Yu, penso che ce lo dimostrano ulteriormente e che anche per questo sono due libri importanti in questo momento. Senza dubbio, rompono confini e costruiscono ponti. E siamo ben contenti, insomma, di averli oggi letti e presentati qui. Grazie per aver portato infatti questi due autori, i tuoi versi. E come sempre anche a tutti per essere stati oggi in ascolto. Vado a concludere perché il tempo è un po' tiranno, appunto, ma anche perché da questa settimana rinizia invece, c'è un palinsesto aggiornato, ritorna alla domenica La fuga del gatto, quindi fra 20 minuti dopo la nostra trasmissione andrà in onda la trasmissione dedicata alla musica classica di Radio Wombat, La fuga del gatto, appunto, in diretta di nuovo dalle 18 tutte le domeniche. Noi, caro Edo, non dobbiamo fare altro che rimandare alla puntata di marzo, la seconda settimana di marzo, la seconda domenica, saremo ancora qua in diretta. Si può, ricordo, intanto riascoltare tutto quello che oggi abbiamo detto e letto in podcast, in replica in vari giorni nella settimana, quando è scritto esattamente nel palinsesto. Ci potete nel frattempo contattare sempre sul sito, sul pad, oppure scrivendo apposta wombat chiocciola in Siberia. Net. Ricordo di nuovo che Vento blu e Cresce dentro di me un uomo straniero si possono trovare su edizioniensemble.it, mentre il libro di Gianluca Bindi, Waltzing Matilda, di cui abbiamo parlato in apertura, lo si può trovare contattando Three Faces dal sito threefaces.org, mi pare. Edo, noi ci rimandiamo a sabato, a domenica. Non mi ricordo esattamente quando, di marzo, l'aggiornamento fra noi e con i nostri ascoltatori. Sto prendendo tempo per vedere se intanto mi si apre il calendario sul computer che ho qua davanti, ma non succede. Sì, 14, di nuovo un 14. 14 marzo, la nuova puntata di PoiUIT. Intanto Edo, un saluto. Mario, un grande saluto a te, a tutta Radio Wombat, grazie ancora. Tra l'altro mi veniva in mente, ascoltandoti, che i libri di Erranze, ma anche molti altri, si possono ritrovare anche in libreria, nelle librerie, diciamo, reali, oltre che in quelle virtuali, insomma, visto che Ben detto, ben la detto. situazione non... E ci sono tante librerie indipendenti che resistono e stanno resistendo nonostante tutto, quindi a maggior ragione vale la pena sostenerle. E quindi ottimo, dai, ci riaggiorniamo per un altro 14, che sarà quello di marzo, dove fra l'altro forse potremmo avere qualche altro viaggio transoceanico e australe, ma non anticipiamo ancora, ci sarà, diciamo, tempo anche per questo. Ma stiamo già impastando per voi, sì, questo lo possiamo annunciare. Evviva! Allora, grazie a Edoardo Olmi, grazie a tutti chi è stato all'ascolto oggi e a risentirci il 14 febbraio. Ciao Edo, ciao a tutti, Wombat. Ciao a tutti. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy T-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all.